Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno, se ci state ascoltando di prima mattina, buon fine serata, come sempre vi auguro, se ci ascoltate in replica alle 20.45. Chi vi parla è Roberto Galullo, la mail alla quale segnalare i casi è unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri, sulla prima pagina del Sole 24 Ore online, quindi su internet. Allora, più volte mi avrete sentito dire, lo ripeto spesso, che casi personali non mi interessano, perché ovviamente non posso risolverli e non mi interessa risolverli. Li prendo di tanto in tanto quando rappresentano invece una platea più ampia di persone, cittadini, contribuenti, clienti o quel che è. È il caso che oggi ci troviamo ad affrontare, in cui un cittadino, questa volta ci troviamo in Piemonte, ci troviamo nella bellissima Ivrea, ha dei problemi con il proprio comune per quanto riguarda l'accertamento ICI, comunque questa imposta comunale sugli immobili, che sarebbe, uso il condizionale, stata abolita, di fatto lo è stata, ma insomma con delle polemiche, con degli strascichi notevoli dall'attuale governo, un'imposta appunto comunale sugli immobili, sulle abitazioni dei cittadini. Questo difficile rapporto noi ovviamente lo sentiremo dalla viva voce del radioascoltatore che ci ha scritto, e lo abbiamo in linea, Giovanni Appiani. Buongiorno Appiani. Buongiorno a tutti. Ovviamente abbiamo dall'altra parte della linea telefonica anche chi viene chiamato in causa, al comune di Ivrea. Abbiamo l'assessore alle risorse finanziarie Enrico Capirone. Buongiorno Capirone. Buongiorno a tutti e buongiorno al signor Appiani. Allora Appiani, può raccontarci in sintesi quello che le è successo? Un abuso, lei dice nella lettera perpetrato al comune di Ivrea nei suoi confronti, un abuso che lei definisce con delle parole anche molto molto pesanti. Prego Appiani. Beh, io avevo acquistato una casa 5 anni fa a Ivrea, sul cui atto notarile c'era scritto che avrei dovuto prenderne possesso il 15 di gennaio. In effetti sono entrato nella casa circa un mese dopo, perché come si fa di solito, si fa dare il bianco ai lavori di ristrutturazione. 5 anni dopo il comune mi ha comminato una sanzione di accertamento ICI, dicendomi, non so ancora esattamente il motivo, però da quello che ho capito era perché fin quando non si entra viene considerata seconda casa, cioè come se io avessi potuto affittarla per quel periodo. Ho capito. Io però mi sono rivolto al... Ecco, no, io qui la interrompo un attimo, perché nella sua lettera sintetica, e invito tutti i radioascoltatori a mandare una sintesi, perché tanto poi eventualmente vi chiamiamo, e non delle lettere lunghissime, perché quelle francamente scoraggiano solo nell'aprirle, dice: io mi sono rivolto in ordine al difensore civico, al garante del contribuente, e questi mi hanno dato ragione. Poi ho scritto anche al giornale locale, che è La Sentinella, una lettera e non ho avuto risposta dal comune. E allora com'è la situazione? Prego Appiani. Io mi aspetto dall'assessore che mi dica se c'è un regolamento, se c'è qualcosa, non tanto per me che ormai ho già pagato la sanzione, ma per i concittadini. Cioè, certo. Questo è il senso civico che mi spinge a fare questa assolutamente cosa. Assolutamente doveroso. Intanto credo, ma non lo sentiremo dalla viva voce dell'assessore Capirone, che se la sanzione è stata ingiustamente, se è stata ingiustamente comminata, suppongo che sia interesse dello stesso comune eventualmente rifonderla, rimborsarla. Però a questo punto sentiamo il comune di Ivrea. Assessore Capirone, le cose stanno così come le ha descritte il suo concittadino Appiani? Le risposte ci sono state, perché io chiaramente a fronte del caso ho parlato con gli uffici, mi sono fatto mandare il materiale, certo, intercorso, quindi anche nel caso dell'intervento del garante del contribuente del Piemonte gli uffici hanno risposto prima in data 15 maggio e poi successivamente ancora in data 18 settembre sempre 2008. Quindi le risposte ci sono state. Io, come dire, vorrei soltanto fare una premessa che va un po' nella direzione di quello che lei diceva. È chiaro che il nostro interesse, nel caso ci fosse, come dire, come è stato definito un abuso, rifondere il contribuente. Io volevo precisare queste cose prima di entrare un secondo nel merito della questione, sì, che a me sembra peraltro molto chiara e che comunque è una questione meramente amministrativa e di applicazione di regolamento da parte degli uffici, quindi come dire, come assessore un po', come dire, guardo da osservatore all'interno dell'ufficio, perché si tratta di applicare dei regolamenti e un intervento diretto chiaramente a fronte della verifica che i regolamenti sono rispettati sarebbe un abuso il mio e non viceversa. Certo. Innanzitutto la nostra amministrazione è molto attenta al rapporto con il contribuente. Noi siamo in carica solo dal 2008, ma come dire, rispettiamo una tradizione come dire, già portata avanti dall'amministrazione precedente, e quindi conosce abbastanza, ritengo che conosca abbastanza le regole e le questioni e i problemi che ci sono all'interno di un'amministrazione. Cerchiamo però anche sempre di comunicare con molta attenzione le regole e i regolamenti, quindi anche, non so, ultimamente abbiamo istituito un autovelox, è stata fatta una grande campagna di comunicazione in modo che i cittadini non fossero vessati e sapessero, come dire, che si stava facendo una cosa nuova e quindi non si verificassero quelle cose che in molte città si sono verificate, per cui un boom delle contravvenzioni e cose. Certo, di questo ecco tipo. Però Capirone, io vorrei pregarla di questo. Nessuno mette in dubbio la tradizione storica volevo di civiltà solo di Ivrea, che è una città che conosco benissimo avendo parecchi amici ed essendo venuto anche a visitare la vostra splendida battaglia delle arance. Ma detto questo, mi pare che invece Appiani testimoniasse una certa difficoltà invece nella comunicazione, perché se uno si rivolge ad un giornale, ad una radio per avere una risposta, forse tutto questo rapporto non c'è, o forse non c'è stato nei confronti di Appiani, perché lei dice tutto facile, tutto risolto, la questione amministrativa, però Appiani a tutt'oggi non ha avuto una risposta a quanto lui dichiara dal comune. Di carteggi che coinvolgono il difensore civico, il signor Appiani e i miei uffici, come dire, ne ho parecchie, quindi da questo punto di vista mi sento, come dire, tranquillo e di smettere rispetto all'operato degli uffici. Allora, a me risulta che il signor Appiani abbia acquistato questo appartamento in Ivrea il 20/12/2002, cioè l'atto del rogito cita questa data. Viene trasferita la residenza, quindi secondo l'ufficio anagrafe del comune, il 25/2/2003. C'è una denuncia del signor Appiani della tassa rifiuti che dichiara di occupare l'immobile, e ce l'ho qui sotto mano, a sua firma, il 20/05/2003 è stata presentata e l'inizio occupazione è dichiarata il 20/02/2003. Quindi in sostanza si denuncia l'ufficio tributo a mano del signor Appiani, che si dimora dal 25/02/2003. Non sono state presentate dichiarazioni ICI dal signor Appiani e quindi per questo il primo pezzo dell'avviso di accertamento è, come dire, si chiede c'è una somma di, la dico subito. Vabbè, ma la somma non ha importanza. Comunque quello che mi pare di capire dalle sue parole, Capirone, è che la sanzione è stata correttamente, come dire, accertata e quindi comminata da parte dell'ufficio comunale, degli uffici comunali di Ivrea, quindi è giusta e valida la procedura che voi avete seguito, quindi Appiani deve pagare, anzi ha già pagato, l'abbiamo sentito, quindi mi pare che non ci siano problemi nel vostro operato da quello che lei dice, no Capirone? Mi sembra proprio di no, perché poi il pagamento dell'ICI avviene a partire dal 2003 a titolo di abitazione principale, e però di fatto tutti i regolamenti e l'articolo 8 del decreto legislativo 504 del 1992 dice testualmente che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella di residenza. Benissimo, anagrafica. Allora io Capirone la interrompo un attimo, perché, e intanto la ringrazio per il suo intervento, il comune di Ivrea, di cui lei è assessore alle risorse finanziarie, si è ben comportato, a questo punto a lei Appiani la parola conclusiva, ha pagato, lo ha fatto e mi pare che non, come dire, non ci sia motivo di doglianza, quanto dice Capirone. Prego Appiani. No, beh, io l'assessore Capirone parla di una dichiarazione ICI, però una dichiarazione ICI che avrei dovuto fare, però mi sembra che non lo dicono tutti i giorni al telegiornale questa cosa. E io quando sono andato all'anagrafe per avvisare che io stavo abitando nel mio alloggio il 25 di febbraio, come ha citato l'assessore, non mi è stato detto, anche perché lì ci si paga posteriormente. Io l'ho pagata tranquillamente a giugno, compreso anche i 15 giorni in cui avrei potuto defalcare, trattenermelo, perché io l'atto notarile parlava del 15 di gennaio, come è stato citato, sì. No? Quindi io ho pagato anche 15 giorni in più, però dopo 5 anni mi si viene a dire che bisognava fare un accertamento, una dichiarazione ICI. Ma dove c'è scritto? Chi l'ha detto? Ecco. Sono stato all'anagrafe, nessuno me l'ha detto. Allora, interessava sapere dall'assessore se c'è un regolamento. Ecco, allora, come parlava dei semafori che vengono avvisati con dei cartelli, anche in questo caso si potrebbe Benissimo. Fare un parallelo, partendo dal suo spunto. Bene, allora Piani, io la ringrazio del suo intervento. Ovviamente la linea è aperta tra di voi, visto che ne stiamo parlando ed è un caso che colpisce migliaia di persone in tutta Italia, questo della scarsa trasparenza dei regolamenti, per questo ne abbiamo parlato, questa volta ha toccato l'ICI, altre volte toccherà altre materie. Io nel frattempo dico grazie a Filippo Regine Gia in studio Laura Faggin e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.